marihuana. Risplendono in me così gli elementi. Oh, marijuana. lancio parole come dato, vedi che cambiano, destino e le rotte si muovono, come parole di bimbi, un gioco che ci era dimenticato, trasformato in violenza dall'uomo, assorbono con me, magia di angeli, draghi fiammeggiano di magia, fiamme che sognano e divino, verso la mia divisione, tra fumo di parole. Delle mie memorie, oh marijuana. La musica con la sua voce sale dalla mano delle strade, nella croce delizia, inizia in condizioni di note. E le musiche le rende liriche, ogni strada si fa più mitica. Oh marijuana, guida i miei occhi nelle tenebre. Vedere come la luce delle mie memorie. Oh.